Vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 2.3. Le misure di prevenzione dell'avvocato Marta Bergamini. Le misure di prevenzione consistono in provvedimenti amministrativi emessi o dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria, aventi ad oggetto il patrimonio oppure la libertà personale e di circolazione, e possono essere emesse dal questore o dall'autorità giudiziaria. Ad oggi queste misure sono disciplinate dal decreto legislativo, cosiddetto codice antimafia, del 6 settembre 2011, numero 159, il quale ha riunito la normativa in vigore fino a quel momento, oltre ad altri decreti legislativi come il numero 159 del 2011, il 14 del 2017 e altri ancora. Le misure di prevenzione, lo dice la parola stessa, hanno carattere preventivo, e cioè sono applicate sulla base di un giudizio complessivo di pericolosità del soggetto, per la sicurezza pubblica e di probabilità che il soggetto in futuro possa commettere dei reati. È dunque sufficiente il mero sospetto di pericolosità, poiché si tratta di un procedimento amministrativo che non necessita di tutte quelle garanzie proprie del processo penale. La pericolosità rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione deve essere sempre attuale e non riguarda la commissione di un reato, ma è desunta dalla partecipazione o appartenenza ad alcune tipologie di individui considerate pericolose per la sicurezza pubblica. Gli elementi che vengono presi in considerazione solitamente sono la personalità complessiva e il comportamento abituale del soggetto, la sua rintracciabilità, il coinvolgimento in fatti rilevanti che possono non costituire reato, ma essere in ogni caso ritenuti antisociali. Come abbiamo appena accennato, le misure di prevenzione si dividono in amministrative, adottate dal questore, e giurisdizionali, adottate dall'autorità giudiziaria. Entrambe devono essere adottate nel pieno rispetto del principio costituzionale di cui è l'articolo 13 della Carta Costituzionale, il quale prevede che ogni limitazione della libertà personale deve essere adottata tramite atto dell'autorità giudiziaria, mentre quelle misure che non limitano la libertà personale possono essere adottate dall'autorità amministrativa, come il questore. È opportuno dunque ribadire che non si tratta di misure aventi natura penale, ma in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di applicazione si commette reato. Misure di prevenzione personale adottate dal questore, ossia le cosiddette misure amministrative, sono il foglio di via obbligatorio, decreto legislativo 159-2011, l'avviso orale, decreto legislativo 159-2011, l'ammonimento per atti persecutori, decreto legislativo 11-2009. L'ammonimento per condotta di violenza domestica, decreto legislativo 93-2013. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO, decreto legislativo 401-1989. Il divieto di accesso urbano, il cosiddetto DASPO urbano, decreto legislativo 14-2017. Il divieto di accesso per spaccio di stupefacenti, decreto legislativo 14-2017. Le prime due misure sono adottate nei confronti di coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi, per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, per il loro comportamento debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. 1. L'allontanamento con foglio di via obbligatorio. Viene emesso dal questore se un soggetto appartenente ad una delle categorie sopra elencate e considerato pericoloso per la sicurezza pubblica si trovi fuori dal luogo di residenza. Tale provvedimento di rimpatrio motivato impedisce di tornare nel comune del quale si è allontanati, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non superiore a 3 anni e deve indicare gli elementi che fanno desumere la pericolosità sociale. È previsto un ricorso gerarchico contro il provvedimento di allontanamento da promuovere entro 30 giorni dalla notifica dell'atto al prefetto della provincia da cui il soggetto è stato allontanato. 2. L'avviso orale è emesso nei confronti dei soggetti sopra indicati da parte del questore o di un suo delegato, il quale invita la persona a tenere un comportamento rispettoso della legge. Con l'avviso orale il questore può imporre particolari divieti se la persona avvisata è stata condannata in via definitiva per delitti non colposi, o sottoposta a sorveglianza speciale o ad altre categorie. La persona avvisata può in ogni momento chiedere la revoca al questore, il quale è tenuto a decidere entro 60 giorni dalla richiesta, che altrimenti si intende accolta. In caso di rigetto, invece, è possibile proporre ricorso gerarchico al prefetto. L'inosservanza dell'avviso orale non comporta la commissione di un reato. 3. L'ammonimento per atti persecutori. Il reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking, introdotto nel nostro codice penale nel 2011, punisce chiunque, con condotte reiterate nel tempo, minaccia o molesta taluna, in modo da ingenerare un perdurante grave stato di ansia o paura o un fondato timore per la propria o altrui incolumità, o da costringere a cambiare le proprie abitudini di vita. Fin quando la persona offesa non ha sporto querela, questa può, raccontando i fatti alle forze dell'ordine, richiedere che venga emesso da parte del questore un ammonimento nei confronti di colui che pone in essere tali condotte, il presunto autore del reato. Dopo lo svolgimento di eventuali attività investigative e dopo aver sentito le persone informate sui fatti, il questore ammonisce oralmente il soggetto, convocandolo e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da compiere ulteriori atti persecutori. Se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, la pena è aumentata e la procedibilità è d'ufficio, ossia non è richiesta la querela da parte della persona offesa. 4. L'ammonimento per condotta di violenza domestica. La violenza domestica consiste nella commissione di uno o più atti, non isolati, di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica, compiuti tra soggetti della stessa famiglia o legate da relazioni affettive. Può essere richiesto un ammonimento da parte del questore in forma non anonima, ma rimanendo garantita la sicurezza della persona che fa la segnalazione. Il questore, una volta assunte le informazioni necessarie e sentite le persone informate sui fatti, può procedere all'ammonimento orale dell'autore dei fatti di violenza e lo informa della presenza dei servizi disponibili sul territorio, specializzati negli interventi a favore degli autori di atti di violenza domestica o di genere. Tra le misure di contrasto al cyberbullismo è stato previsto che il questore può emanare l'ammonimento orale nei confronti del minore infraquattordicenne, previa convocazione unitamente ad un genitore, ed intimargli di interrompere comportamenti non corretti attuati per via telematica nei confronti di un altro minore, anche al fine di evitargli eventuali risvolti di rilevanza penale. 5. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o DASPO. Si rimanda al capitolo sul DASPO sportivo, quanto alla procedura si rimanda al capitolo sulle sanzioni amministrative. 6. Il divieto di accesso a determinati luoghi o DASPO urbano è adottato dal questore nei confronti di soggetti che hanno ricevuto reiterate sanzioni amministrative che comportano l'allontanamento, se da tali condotte possa derivare pericolo per la sicurezza. L'ordine di allontanamento è un'ingiunzione rivolta dall'organo competente alla persona che ha commesso determinate violazioni amministrative di allontanarsi da determinati luoghi per una durata di 48 ore, che può essere disposto unitamente a delle violazioni amministrative, quali impedire l'accesso e la fruizione di aree quali ferrovie, aeroporti, stazioni marittime e altre aree urbane, esercitare abusivamente l'autorità di parcheggiatore, esercitare il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, essere in stato di ubriachezza, commettere atti contrari alla pubblica decenza. Si tratta di un provvedimento motivato che impone il divieto di accesso a determinati luoghi per un periodo non superiore ai 6 mesi, salvo casi più gravi. Per questo tipo di misura non è necessario un giudizio sulla pericolosità del soggetto, ma è sufficiente che dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza. 7. Il divieto di accesso per spaccio di stupefacenti. Tale misura è stata introdotta col decreto legge 14 del 2017 per prevenire lo spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico o in strutture scolastiche o universitarie. È infatti emanata nei confronti di persone condannate in via definitiva nei 3 anni precedenti per reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 DPR 309 del 1990. Se i fatti si sono verificati nelle vicinanze o all'interno delle scuole, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, o all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Il divieto di accesso ha una durata da 1 a 5 anni e deve essere compatibile con le esigenze di mobilità, studio, lavoro e salute del destinatario del divieto. È prevista anche una misura delle modalità più gravose che necessita una conferma da parte del GIP competente e può comportare l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o carabinieri, obbligo di rientro nella propria abitazione entro un determinato orario e di uscita non prima di una certa ora di volta in volta stabilita, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata e uscita degli istituti scolastici. Misure di prevenzione personali adottate dall'autorità giudiziaria. Le cosiddette misure giurisdizionali sono 1. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Con divieto di soggiorno in uno o più comuni. 3. Con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 4. Con applicazione dei braccialetti elettronici. I soggetti destinatari di tali misure, più o meno gravose, sono elencati dall'articolo 4 del codice antimafia. Il procedimento. Per tali misure la proposta è del questore, del procuratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto ove dimora la persona e del direttore della direzione investigativa antimafia e, in alcuni casi, anche del procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale e del procuratore distrettuale. La segnalazione contiene i dati relativi alle notizie di reato a carico del soggetto, gli eventuali rinvii a giudizio, le sentenze, anche non definitive, gli elementi necessari per poter svolgere un giudizio di pericolosità, quali il comportamento tenuto prima e dopo l'eventuale avviso orale, la personalità complessiva, la frequentazione di luoghi malfamati o di persone pregiudicate, gli atteggiamenti violenti e abietti, le attività lavorative e i redditi dichiarati. Nel caso in cui si richieda la misura di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno, è necessario indicare anche gli elementi dai quali poter desumere il collegamento tra la pericolosità del soggetto e il luogo dal quale vuole essere allontanato. Mentre in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, gli ulteriori elementi da indicare sono volti a specificare la necessità di interrompere il legame del soggetto con alcuni luoghi e l'appartenenza del soggetto ad associazioni di tipo mafioso. La proposta con la segnalazione viene inviata al tribunale, dove si svolgerà un'udienza non aperta al pubblico, salvo che l'interessato ne faccia richiesta, ma alla presenza necessaria del difensore e del pubblico ministero. Il tribunale emette entro 30 giorni il decreto motivato con indicazione delle prescrizioni di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di fissare una dimora, comunicarla all'autorità di pubblica sicurezza, di non allontanarsi senza preavviso e altre indicazioni sul comportamento da tenere durante il periodo di sorveglianza speciale. In caso di urgenza, il Tribunale può provvedere con decreti all'adozione di misure temporanee, come ad esempio il ritiro del passaporto, nella pendenza del procedimento. Il provvedimento del Tribunale è comunicato al questore per l'esecuzione. Esso, su richiesta dell'interessato, può essere revocato o modificato dallo stesso organo che lo ha emanato, laddove siano mutate o cessate le condizioni poste a fondamento della sua emanazione, oppure su istanza dell'autorità, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o in caso di violazione delle prescrizioni imposte. La misura di prevenzione personale emessa con decreto del Tribunale ha una durata da 1 a 5 anni e decorre dal giorno in cui viene comunicata al soggetto destinatario e a scadenza nel termine indicato nel decreto stesso, a meno che il soggetto commetta in tale periodo un reato. L'esecuzione della sorveglianza speciale viene sospesa sia nel caso in cui il soggetto sia sottoposto a misura cautelare in carcere, sia se stia eseguendo la pena definitiva in carcere e riprende nel caso in cui al termine sia verificata la sussistenza della pericolosità per la sicurezza pubblica. In caso di sorveglianza speciale, il soggetto deve tenere con sé ed esibire, in caso di controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, una carta di permanenza contenente le prescrizioni imposte. Misure di prevenzione patrimoniali. Le misure di prevenzione patrimoniali sono finalizzate a privare il soggetto indiziato dei beni di sospetta o accertata provenienza illecita, aggredendo il suo patrimonio. Possono essere applicate a prescindere dalla pericolosità sociale del soggetto e della sua attualità, dalla morte dello stesso e persino nei confronti di un soggetto che non fa più parte delle associazioni criminali. Tali misure possono essere applicate anche contemporaneamente all'applicazione di misure di prevenzione personali a tali soggetti, coloro che possono essere destinatari della sorveglianza speciale, persone fisiche e giuridiche che possono essere segnalate al Comitato per la Sanzione delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possono essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche. Le misure di prevenzione patrimoniali sono finalizzate a privare il soggetto indiziato dei beni di sospetta o accertata provenienza illecita, aggredendo il suo patrimonio. Possono essere applicate a prescindere dalla pericolosità sociale del soggetto e alle attualità nei confronti di soggetti che non fanno più parte di associazioni criminali o di morte del soggetto. La proposta spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove dimora il soggetto, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al Questore e al Direttore della Direzione investigativa antimafia. L'autorità che procede svolge delle indagini relative al tenore di vita della persona, al patrimonio e alle attività economiche in essere per verificare l'eventuale titolarità di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizione ad albi o se sia beneficiario di agevolazioni o mutui o erogazioni di vario tipo. Le misure di prevenzione patrimoniali sono: 1. Il sequestro ordinario, anticipato o urgente, hanno piuttosto natura di provvedimenti cautelari. 2. La confisca dei beni sequestrati se la persona non è in grado di giustificare la legittima provenienza. La confisca può avvenire anche per equivalente se il soggetto non ha più la disponibilità dei beni. Queste due misure possono comportare anche che il tribunale disponga l'amministrazione giudiziaria dei beni o il controllo giudiziario dell'azienda. 3. La cauzione. Con l'applicazione di tale misura, la persona è tenuta a versare alla cassa delle ammende una somma volta ad evitare che non rispetti le prescrizioni imposte. Il deposito di somme può essere sostituito da idonee garanzie reali. 4. L'amministrazione giudiziaria dei beni personali, se si ritiene che la libera disponibilità dei beni possa agevolare l'attività, la condotta o il comportamento socialmente pericolosi. 5. L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, se non può applicarsi altra misura patrimoniale, ma si possa ritenere che l'attività sia in qualche modo soggetta ad intimidazione o assoggettamento ad un'associazione di tipo mafioso oppure possa agevolare l'attività illecita. Le misure di prevenzione giurisdizionali possono inoltre comportare degli effetti interdittivi nell'ottenimento di licenze o autorizzazioni di polizia o di commercio, di concessioni di vario genere e iscrizioni in determinati elenchi.